palpito sincope, sudore di profumo e odore di te. My flesh, death. Shit lady dolce e dinamitardo flash. Le tenebre si aprirono, che narro l'altro di un dardo dinamitardo. Lei distese nell'oltre di un tuono ardo, come Gesù ove centurie nemiche contro un dardo. Te mamassi in ogni amore questo ardo ricordo, ritrovo attraverso il rincorrere di un flash. Perso, e al nostro amore solo millisecondo in un multiverso. Eros, profumo del cosmo. Noi espanso, danzo, mi temo di un ricordo, di uno sparo di ghiaccio. Mentre io e te noi ci baciamo, due dei espanso, danzo con in mano una Smith & Wesson, scena di un ricordo, di un colpo di ghiaccio, mentre noi bruciamo nell'immenso. Sì, proprio come due dei, io e lei, io e lei.